Allora, io oggi volevo soffermarmi sullo stile del Magistero di Papa Francesco, sullo stile che lui ha e che anche chiede alla Chiesa, no? Chiede quindi anche a ciascuno di noi, non solo ai preti, ai vescovi, ma anche ai laici, no? E io penso che l'ispirazione forte di questo Magistero si colleghi proprio con il Concilio Vaticano II. E anche proprio Paolo VI, quando nel discorso conclusivo del Vaticano II, diceva che forse mai lungo la storia della Chiesa, la Chiesa stessa aveva sentito come l'urgenza di così forte, no, di evangelizzare la società circostante nella quale è immersa, no? E quindi il Vaticano II ha, vi ricordo anche io, ogni tanto faccio qualche accenno di tipo storico che non è detto che tutti abbiano presente, il Vaticano II si chiama secondo proprio perché in riferimento al Concilio Ecumenico Vaticano I, che si era interrotto dopo aver definito l'infallibilità del Papa quando parla ex cattedra, perché c'era stata la presa di Porta Pia, no, la breccia di Porta Pia, e quindi era stato uno shock molto forte per la Chiesa. Si era interrotto con l'idea di ricominciarlo quando ci sarebbero stati tempi migliori, perché la Chiesa aveva già allora l'intenzione di ragionare su se stessa, no? E quindi il Vaticano II riesce a fare questo lavoro, cioè la Chiesa che per la prima volta ragiona su se stessa per definirsi, per comprendere chi è lei davvero e potersi quindi interfacciare con il mondo e riprendere un dialogo con il mondo dopo quei 2 secoli famosi di cui parlavamo anche la volta scorsa, in cui la Chiesa per difendersi si è un po' chiusa in se stessa, si è rafforzata, si è anche dilatata, però poi a un certo punto per l'evoluzione della società aveva perso il contatto con molta gente, con molta popolazione del mondo, delle nazioni anche di antica tradizione cristiana. E quindi Paolo VI sottolineava che era la prima volta che la Chiesa in un concilio ecumenico non si era soffermata a difendere i propri diritti o a descrivere le sue leggi o a condannare. In effetti è stato proprio il primo concilio ecumenico della Chiesa che non si è concluso con qualche definizione di tipo dogmatico nuova o con qualche anatema, no? E io non so se voi avete, qualcuno di voi, forse degli ascoltatori, conoscerà un antico libro che insomma è uno strumento noto ai teologi, no? E anche agli studenti di teologia, che è il libro che si chiama Denzinger, Enchiridion Symbolorum, cioè è un libro fatto, ecco, da questo teologo esperto dell'Ottocento che aveva fatto un insieme dei simboli della Chiesa lungo la storia, no? Dei simboli, delle dichiarazioni dogmatiche, proprio perché ci teneva a fare in modo che ci fosse uno strumento per gli addetti ai lavori che significasse, come dire, la tradizione della Chiesa che lungo il magistero dei papi si era consolidata e aveva fatto una serie di espressioni che definivano il nostro credo, no? Ebbene, in questa documentazione si vede, in questo libro che adesso è stato pubblicato anche con la traduzione italiana, prima era solo in greco e in latino, si vede come era tipico dei concili dell'antichità soffermarsi abbastanza, no, su questi anatemi, cioè, come dire, questo tipo di frase non fa parte della dottrina cattolica, quindi va considerato come fuori dalla dottrina cattolica, come scomunicato a colui che pensa questo, cioè fuori dalla comunità della fede. Era questa la preoccupazione di buona parte del Magistero della Chiesa nel passato. Però ecco, per la prima volta un concilio non si conclude con delle condanne o con delle definizioni di dogmi, ma esprime a livello pastorale come la Chiesa deve porsi, ecco, con il mondo circostante. E pur riconoscendo, il Papa diceva, pur riconoscendo che l'umanesimo ateo proprio anche in quegli anni aveva avversato il concilio, però il concilio non aveva reagito con scontri, con anatemi o con lotte, ma invece aveva agito nei confronti del mondo come il buon samaritano, con una grande simpatia, una simpatia immensa, lui diceva, per il mondo, la scoperta di tutti i bisogni umani. Ecco, io penso che dobbiamo tenere molto presente questo insegnamento del Concilio Vaticano II per capire il Magistero di Papa Francesco. Infatti nell'Evangelii Gaudium l'incipit del numero 23 dice: sogno una chiesa missionaria capace di trasformare ogni cosa. Secondo me quell'incipit è molto importante per capire quello che vuole fare il Papa, no? Nella chiesa che sta facendo. Quel documento che era in realtà Evangelii Gaudium doveva essere la conclusione di un sinodo precedente, ha offerto al Papa la possibilità di parlare di come deve essere l'evangelizzazione secondo lui nel tempo attuale, no? E ecco, io penso che un'altra cosa da tenere presente, sempre pensando alla storia della Chiesa, è che nel passato il Magistero si rivolgeva prevalentemente ai credenti, cioè diceva appunto ai credenti: guardate che se voi battezzati, se prendete questo tipo di dottrina, ecco, uscite dalla fede della Chiesa e poi dovete comportarvi in questo modo per essere coerenti col Vangelo. In questo caso il Magistero della Chiesa si è rivolto ai battezzati, ma come dire, pensando a coloro che sono fuori e coloro che sono lontani. Infatti ha fatto anche dei documenti appunto per l'Ad Gentes, no? E anche l'Unitatis Redintegratio, per coloro che si sono staccati dall'unità della Chiesa. E per fare questo, perché questo magistero possa avere un'efficacia, Paolo VI ancora proprio diceva: guardate, tenete presente che nel presentare le verità cattoliche esiste un ordine o addirittura una gerarchia delle verità della dottrina cattolica, perché è diverso il loro nesso col fondamento della fede cristiana. Come dire, ci sono delle verità più importanti, più essenziali, altre che hanno una gerarchia diversa, un ordine diverso, no? Questo fa capire forse, no? Ci dà una chiave di lettura per capire anche lo stile del Magistero di Papa Francesco, che non disdegna, anzi utilizza i mezzi tradizionali del Magistero, perlomeno degli ultimi secoli. Tenete presente che quando uno pensa all'enciclica papale, l'enciclica papale ha 2 secoli e mezzo, ecco, prima non è uno strumento che c'è sempre stato, no? Però utilizza anche altri strumenti tipici dello scritto, diciamo così, di definizione dottrinale o pastorale, però poi dà una grande importanza, per esempio, alla predicazione, no? Pensate che sulla predicazione, ecco, sarebbe molto interessante approfondire questa dimensione, no? La predicazione dei papi, no? La predicazione dei vescovi. Ci sono state epoche nella Chiesa in cui la predicazione dei papi, alcune epoche in cui i papi più che altro predicavano. Per esempio, nel libro che vi ho detto prima, il Denzinger, l'insieme dei simboli della fede, delle dichiarazioni insomma, del Magistero della Chiesa lungo la storia, lungo questi 2000 anni, è significativo per me vedere che quanti sono 264 papi che tiene in presente, cioè praticamente fino a Giovanni Paolo II, i papi sono con Francesco, sono 266, solo di 124 papi presenta dei documenti di tipo dottrinale o di tipo magisteriale, ecco, scritto, no? Spesso sono anche dei concili che poi sono stati convocati dall'imperatore, ecco, e che il Papa conferma, no? Cioè 124 papi che hanno detto qualcosa di significativo dal punto di vista dottrinale lungo la storia della Chiesa su 264, che significa che di 140 papi non dice nulla, no? Non, questo studioso non ha ritenuto cose importanti, forse magari a volte anche non ci sono, e quindi sono papi che hanno, alcuni di loro hanno semplicemente predicato, no? Hanno semplicemente fatto i pastori, no? Quindi di fatto questo è interessante tenerlo presente, perché ci aiuta anche a, in qualche elemento di storia della Chiesa, ci aiuta a relativizzare, ecco, anche a comprendere i tempi presenti. Il fatto che i papi predichino, senz'altro non è una novità questa da parte di Papa Francesco, però è una novità che si è affacciata in fondo nell'ultimo secolo, dal Novecento, hanno cominciato a predicare, a fare omelie molto importanti. Noi conosciamo le omelie di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI, che comunque chi ha vissuto quell'epoca si ricorda che erano omelie senz'altro stupende, molto belle, molto importanti, però dette prevalentemente in momenti, diciamo così, di solennità o di incontri pastorali molto importanti, tipo la giornata mondiale della gioventù o l'incontro delle famiglie, o ecco, quelle solennità, il Natale, la Pasqua, eccetera. Invece il Papa Francesco, oltre a fare queste cose, Papa Francesco ha cominciato fin da subito, vi ricordate, a predicare le omelie quotidiane, possiamo dire, non sono proprio tutti i giorni, però sono nelle omelie feriali, no? Io penso che questo stile del Papa, pensate che una volta mi diceva una persona che sta negli Stati Uniti, che loro, avendo una differenza di orario, no, rispetto a noi, loro si svegliano al mattino e hanno già l'omelia del Papa, che quando la fanno a Santa Marta, che è scritta o addirittura audio, che possono ascoltare e che gli dà una interpretazione spesso molto originale del Vangelo del giorno che lui ha meditato nella sua preghiera personale. Noi sappiamo dai suoi, come dire, da chi gli sta vicino, che lui si alza molto presto al mattino e fa una lunga orazione nella quale medita la parola del giorno e la porta appunto all'omelia di quella messa, sapendo, io credo, che poi viene pubblicata in parte, no? E poi anche lanciata come audio. Quindi lui in questo modo sta compiendo un atto del magistero, anche se non è il magistero, diciamo, ufficiale, solenne, straordinario, ma sta accompagnando il popolo di Dio a conoscere il Vangelo, a mettersi dentro al Vangelo, a cercare di adeguare la propria vita al Vangelo sine glossa, no? Cioè al Vangelo così com'è. E ecco, io penso che questa sia una dimensione molto importante. Adesso non so se, vedo che sono già passato un quarto d'ora, potremmo forse fare un piccolo stacco musicale per poi riprendere la nostra conversazione più tardi. Continuiamo il nostro discorso. Io vi stavo parlando appunto dello stile del Papa, del suo magistero, che ingloba, a mio parere, anche tutta una serie di messaggi che vengono dati in modo diverso da quello che eravamo abituati in decenni passati, no? Addirittura io sono convinto che quello che può fare oggi il Papa in questo senso è grazie ai passi avanti che hanno fatto anche i papi precedenti, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, che hanno fatto secolo, sono andati anche già in questa linea. Mi ricordo per esempio Giovanni Paolo II, quanto che spesso gli piaceva, il discorso era preparato, no? Perché si era abituati, soprattutto nei pontificati precedenti, che probabilmente è il frutto della, del Vaticano prima, cioè siccome il Papa era stato dichiarato infallibile, ma soprattutto, anche se sappiamo che è infallibile solo quando parla ex cathedra e quando definisce dogmaticamente con la verità della fede, è d'accordo con, insomma, con l'accordo di tutti i vescovi, insomma, con alcune caratteristiche, però di fatto questo aveva portato a dare molta importanza alle parole del Papa e quindi venivano tutte anche riviste in modo tale che non ci fosse nessun errore, no? Anche il discorso semplice era rivisto dalla segreteria di Stato. Però Giovanni Paolo II ha cominciato a rompere questo protocollo, potremmo dire così. Mi ricordo benissimo quando venne a Verona, io ero in quegli anni lì del 1987, mi pare 87-88, quando aveva preparato il discorso, spesso lo faceva con i giovani, no? Quindi era un discorso visto, preparato, diciamo, come dire, dagli uffici del Papa, e lui lo metteva da parte, diceva, e questo lo leggerete per conto vostro, e parlava a braccio, no? Ed erano sempre dei contenuti meravigliosi, no? Mi ricordo anche degli incontri con Giovanni Paolo II che facevamo con da studenti nella, per esempio la sera di Pasqua, noi ecco, partecipavamo a Roma a degli incontri con studenti che partecipavano alla vita del Gusei in varie parti del mondo, e alla sera della Pasqua Giovanni Paolo II ci accoglieva nel cortile di San Damaso, e lì spesso dopo aver fatto festa cantato e anche scherzato, e ci diceva delle parole bellissime dette in modo spontaneo a partire dalla sua vita spirituale, no? Dalla sua preghiera. Allora, e quindi però io quello che penso è che il Papa Francesco è andato avanti su questa linea e ha fatto ancora di più, e considera come insegnamento alla Chiesa queste omelie quotidiane, anche come dire, ecco, le esternazioni, quello che dice sull'aereo, quello che dice un incontro e così anche a tu per tu con le persone. E io penso che in questo modo, pensate anche, faccio un altro riferimento assolutamente lontano, che però bellissimo, e anche di Sacra Scrittura, cioè il primo discorso di Pietro, cioè direi la prima omelia, la si può definire, no? Negli Atti degli Apostoli. Parentesi, proprio per questo credo che il Papa stia scegliendo di fare le sue udienze in queste settimane sugli Atti degli Apostoli, no? Perché la Chiesa che evangelizza, la prima Chiesa che evangelizza. No? Dopo quell'omelia di Pietro, dice il libro degli Atti degli Apostoli, che tutti coloro che ascoltavano manifestavano che quelle parole avevano ferito il loro cuore, no? E quindi dicono, fratelli, che cosa dobbiamo fare? E poi è bellissimo, cioè io credo che il Papa desideri attraverso il suo magistero lo stile, le parole che usa e a toccare il cuore delle persone senza considerarsi l'unico che deve farlo, perché vuole forse dare esempio, perché vescovi, preti e anche laici si affidino allo Spirito Santo e facciano quei discorsi che vanno al cuore e per portare, perché Gesù possa arrivare, perché lo Spirito Santo possa scendere, no? Sui nostri amici e contemporanei. Allora, ecco, io penso che quindi da questo punto di vista, quando pensiamo al Magistero, all'insegnamento del Papa Francesco, dico delle cose che forse sono scontate o banali, ma mi sembra bello dirle, utile, e dobbiamo liberarci dal pregiudizio che il Magistero è solo quella cosa scritta, quella cosa che va nei documenti, no? Ma invece la parola diretta anche ci insegna tantissimo, no? Ho sentito anche recentemente la testimonianza di un credente che si nutre del contenuto delle sue omelie, scoprendovi una lettura del Vangelo che è sempre nuova, che è sempre originale e che deriva, direi, frontalmente proprio dalla sua preghiera, no? E che manifesta che il Vangelo è sempre vivo, no? E che è scritto dallo Spirito Santo, e lo Spirito Santo ci può aiutare a leggerlo e a metterci direttamente in contatto col Vangelo per lasciarci ferire il cuore da Gesù e dire che dobbiamo fare, fratelli, no? Ecco, io farei anche una piccola parentesi, no? Proprio sul Magistero del Papa, e sul fatto che, ecco, è uscito recentemente un libro, l'ho proprio intravisto, ne ho avuto la notizia ma non l'ho letto, no? E che si intitola L'Enciclica dei Gesti, no? Poi è anche uscito un altro libro in Spagna di una vaticanista che si intitola Il Papa della Tenerezza. Ecco, allora, come dire, io credo che anche questi gesti che il Papa fa con spontaneità, no? Chi lo conosceva anche prima lì a Buenos Aires dice, no, che anche lì era spontaneo con il modo di dire, di rapportarsi con le persone, però evidentemente adesso la sua spontaneità è molto più visibile, no, perché è Papa, no? Pensate a tanti gesti che hanno commosso moltissime persone, direi la maggioranza, e poi forse hanno un po' infastidito alcuni altri che preferirebbero una gestualità simile a quella, ecco, diciamo, dei decenni passati, ecco, un Papa che custodisca un po' più una dimensione sacrale, no? Io mi ricordo, non è che l'abbia visto, anche se su YouTube si possono vedere filmati che so di Pio XII, no? Però mi ricordo che mio padre, anche a noi bambini, no, ci raccontava come, ecco, lo colpiva, no, quella, lo commuoveva, no, anche quella, vedere con il Papa Pio XII sulla sedia gestatoria, oppure quella famosa immagine sulle macerie dopo i bombardamenti a Roma, no? Allo stesso tempo, ecco, c'è stato tutto un passaggio di gesti che ha cominciato con i papi successivi, progressivamente hanno tolto tutta una serie di gesti, anche di pesti, no? Che erano nella linea della sacralità, per rendere il Papa sempre più normale, sempre più vicino a noi, no? E in questo Papa Francesco ha fatto un grande passo, no? Infatti, quando gli chiedevano: ma come mai lei è la novità, l'abbiamo visto salire sull'aereo portandosi la borsa da viaggio, e lui dice: beh, ma è un fatto normale, chiunque viaggia si porta una borsa, no? E forse anche un gesto di non farsi servire e di non avere il servitore accanto. Però lui diceva proprio: ma è normale, bisogna abituarsi a considerare il Papa una persona normale. Lui dice di sé: sono un peccatore, ho errori, gradisce anche che lo si corregga. Ecco, in questo senso sta, come dire, secondo me, nel suo magistero dei gesti, dandoci un'immagine del Papa più normale, no? Togliendolo un po' da quella sacralità che sicuramente ha fatto tanti beni alla Chiesa e anche ai popoli che ne ricevevano l'immagine nel passato, ma che adesso potrebbe probabilmente solo allontanare molti, no? Essere poco compresa dai contemporanei. Invece la sua normalità conquista, ma il suo uscire dal protocollo ha sempre conquistato, anche le cose che faceva Giovanni Paolo II conquistavano il cuore, no? Quando rompeva il protocollo. Io, per esempio, ci ricordiamo quando il Papa Francesco viaggiava in macchina verso la Calabria, vede un gruppo di famiglie con un ragazzo disabile su una barella, no? Perché volevano che semplicemente al suo passaggio il Papa lo vedesse e lo benedicesse. Allora il Papa fa fermare la macchina, scende, lo bacia, e queste cose conquistano, evidentemente, quella famiglia, conquistano il cuore di quella famiglia, ma anche di tutti quelli che attraverso i mezzi che oggi ci sono, la televisione, i filmati, YouTube, tutto quello che volete voi, no? E in Facebook, eccetera, eccetera, e conquista molti altri cuori, no? E questo lo fa continuamente, cioè si lascia, come dire, fermare, no? Quindi dà la dimostrazione di non avere fretta, no? Io mi ricordo che quando fu eletto, quindi che non avere fretta, ed è Dio che non ha fretta per noi, cioè che è Gesù che ci aspetta e che ci chiama, come Dio, per stare a casa nostra senza problemi di orario, no? E quindi lui in questo modo ci dà l'immagine di un Gesù che ci cerca personalmente e che sta con noi, no? Dicevo, mi ricordo che all'inizio, quando uscì un libro che era stato scritto a Buenos Aires, e lui in questo libro raccontava come una volta stava confessando in un santuario e doveva prendere il treno, esce dal confessionale, arriva un penitente e lui sulle prime gli dice: scusa, vai da un altro che io ho il treno, sto perdendo il treno. Poi si pente, torna indietro, lo ascolta, cioè gli si dedica, e poi va in stazione e poi dice: poi sono stato pure fortunato che ho trovato il treno. Ecco, si vede che c'è come un lavorio, una lotta interiore per dedicarsi alla gente, no? Io l'ho visto qualche volta dopo le udienze, quelle poche che ho saputo fare, anche quelle del mercoledì, che lui si ferma con alcune persone e non ha un orologio, diciamo, non ha anche molto tempo, no? E queste cose conquistano il cuore, il fatto che lui, ecco, baci e abbracci i malati, gli anziani. Quando è andato in, forse l'avete visto tutti, è andato in Sud America, a Honduras, e una anziana cieca c'aveva un cartello che diceva: il Papa, per favore, benediscimi, e lui fa fermare la Papa Mobile e scende da lei. O tutti si ricordano, forse vi ricordate, a Rio, quando gli fecero vedere la Papa Mobile tutta blindata, vetri antiproiettile per evitare di attentati, e lui non l'ha voluta, ma dice: io non posso mettere un ostacolo fra me e la gente, e devo poterli abbracciare, toccare, farmi toccare. È vero che ci può essere un patto, no? Lui diceva, però a parte che c'è sempre anche il Signore che protegge, però in realtà è una pazzia distanziare, ecco, insomma, il vescovo dalla gente, il sacerdote dalla gente, che è come dire distanziare Gesù dalla gente, non si può. E quindi preferisco questa pazzia di rischiare un attentato, dice morto un papa se ne fa un altro, e però contattare la gente direttamente, no? Quindi io penso che gli studiosi, no, che pensano appunto come anche stiamo facendo noi questa sera, possiamo leggere alcuni testi, e poi se leggerò qualcuno di Evangeli Gaudium per dire che stile il Papa vuole che abbiamo noi evangelizzatori, i cristiani che vogliono evangelizzare, che devono essere tutti, però è vero anche che lui evangelizza con i gesti, anche questo è per noi molto importante. Cioè io dico con i miei gesti, col mio sguardo, col mio dedicare tempo, col mio non infastidirmi per coloro che, insomma, mi interrompono nel mio programma, no, nel mio progetto. E lui in questo io racconto quello che ricordo. Intanto tutti sanno che lui, quando andò a Lampedusa all'inizio del suo pontificato, raccontò che ci andò, che erano appena morti molte centinaia di persone in quel dramma, no? E lui ci andò perché disse che non riusciva a togliersi dalla testa quelle immagini, quel fatto, e allora ha capito che in questo modo lo Spirito Santo gli stava dicendo: vai a Lampedusa. E così andò e nacque quella bellissima visita, del tutto imprevista, no? E io vedo che lui questo metodo lo usa spesso. Per esempio, ho sentito raccontare di una cosa da un prete amico che conosceva un altro prete che aveva una malattia, diciamo, o che ha forse tuttora, una malattia degenerativa molto, molto rara, che, insomma, che forse, insomma, non riusciva ad essere curato, che gli impediva anche l'uso delle mani. E sua mamma gli diceva: scrivi al Papa che preghi per te, no? E lui resisteva, diceva: cosa vuoi che il Papa... Però alla fine ha dato retta alla mamma e ha scritto al Papa una letterina in cui, insieme con la mamma, gli chiedeva di tenere presente che lui aveva questo dramma della malattia che lo rendeva un po' invalido nel gestirsi, no? E dopo un po' di tempo, come è successo anche ad altri, ha ricevuto la tipica telefonata appunto dal cellulare che dice numero sconosciuto, no? E lui risponde e dice: sono Francesco, era il Papa che lo chiamava, no? E poi gli diceva: ma c'è lì con te la tua mamma? E lui dice: beh sì, allora dille di sedersi, no? Perché che non abbia un colpo, no? Che non gli venga un'emozione troppo forte. E allora passamela. E ha parlato un po' con la mamma di questo sacerdote, poi è tornato a parlare con lui e gli ha detto: quando vuoi venire da me? E lui ha detto: quando lei può, santità, insomma, tanto padre, non so come la chiamava. E l'altro diceva: no, quando poi tu c'hai, veramente come una disponibilità incredibile, come se fossero alla pari, no? Queste sono cose che insegnano. E poi dopo effettivamente hanno fissato un appuntamento, so che sono stati insieme un'ora e mezza, e lui gli ha raccontato questo particolare: il Papa, sapete perché vi ho chiamato? Perché io ho letto quella lettera, no, tua, no? E ho pregato per te, e ti ho messo nelle intenzioni della messa, dico, cito a memoria, non è letterale quello che... Però quello che è letterale sicuramente, che è veramente accaduto, e che gli ha detto: però io poi quella lettera era sera l'ho strappata e l'ho buttata nel cestino, sono andato a letto e non riuscivo a dormire, mi tornava sempre in mente quella lettera. E allora ho pensato, mi sono rialzato, sono andato al cestino della carta, ho ripreso i pezzettini, l'ho attaccata tutta con lo scotch, no? Per riuscire a recuperare tuo numero di telefono e i tuoi... E di fatto, volete vederla? È andata in camera e l'ha presa. Tu hanno visto questa lettera tutta strappata e poi riaggiustata con lo scotch. In questo senso lui ha seguito anche lì un'ispirazione che il Signore gli dava. E è ovvio che tutti noi vorremmo riuscire, vabbè, non è possibile, può farlo solo con qualcuno, però questo ci insegna, indubbiamente ci insegna come dobbiamo fare con le persone che ci cercano per avere un conforto, no? E, ecco, allora mi ricordo anche di una cosa che mi ha colpito tantissimo quando l'ho riletta qualche tempo fa, e quando il Papa, io sono qui a Milano, ecco, venne a Milano qualche anno fa, no? Venne a Milano e andò in carcere, no? Andò in carcere a San Vittore a pranzare, no? Quindi fece l'incontro in Duomo, poi fece l'incontro al pomeriggio, la messa a Monza, no? E allora dopo io ricordo che qualche giorno dopo, no, avvenne che un carcerato scrisse all'Avvenire, no? Scrisse all'Avvenire una letterina, ma proprio pochi giorni dopo. Io ricordo che la visita del Papa era il 25 marzo del 2017, no? E allora, proprio il 30 marzo 2017, questo carcerato scrive all'Avvenire che pubblica: caro direttore, finalmente ho dormito. Dopo 117 giorni di custodia cautelare preventiva, sono riuscito a riposare 6 ore di seguito fino a questa mattina di domenica. E questo lo devo a un sacerdote, tra virgolette, un uomo, un padre, un nonno, un santo, che a una domanda rivolta tra un boccone e l'altro, con una semplicità sconcertante mi ha risposto: piango. Eh sì, anche il Papa piange. Gli ho chiesto: Francesco, ma come fai a fare tutto ciò che fai? E lui: piango. Piangere mi consente di raccogliermi con me stesso e unirmi con Dio. Ieri, sabato 25 marzo, ho vissuto la liturgia eucaristica in un modo nuovo, inconsueto e forse banale, nello svolgimento del pranzo di noi detenuti nel carcere di San Vittore. Gli abbiamo versato l'acqua e l'aranciata dalle nostre stesse bottiglie condivise. Ha aspettato che tutti fossimo serviti, più di 100 persone, del risotto alla milanese per cominciare a mangiare. E poi ha tagliato la cotoletta in due perché è troppo grande per lui, dicendo che non poteva mangiare troppo in quanto aveva tanto da camminare nella giornata. E alzandola in alto ha chiesto: chi la vuole? Ieri sera, dopo aver mangiato le stesse cotolette cucinate in cella e condivise con i miei concellini, ho pianto, finalmente sognato. È domenica e tra poco comincia messa nella rotonda benedetta dal Papa. Qui tutto è cambiato, la storia è stata fatta, la storia è passata da qui e dormire per me non sarà più lo stesso. Piangerò, dormirò e sognerò finalmente. Grazie Francesco. Ecco, a me sembra stupenda questa testimonianza come una piccola risposta umana, molto umana, e anche molto divina, se vogliamo. Gesù piange, ha cambiato la vita di questo detenuto che peraltro sta aspettando il giudizio cautelare preventiva, e ha cambiato la vita e gli ha permesso di dormire, di sognare e di piangere con libertà. Ecco, forse adesso, non so, facciamo un altro piccolo stacco musicale per meditare queste bellissime cose. Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo spunti di riflessione sugli insegnamenti di Papa Francesco, riflessione a cura di Don Andrea Mardegan, sacerdote e scrittore. Apriamo ora le nostre linee per i vostri interventi che potrete fare in diretta componendo il numero 031 64 60 00. Oppure inviando le vostre domande con un SMS al numero 331-791-4523 o all'indirizzo mail diretta @radiomater.org. Ecco, allora io intanto procedo con alcune cose da dire che avevo preparato. Io penso che, ecco, con tutte queste cose che abbiamo detto prima, possiamo ribadire una cosa che è stata lega, che nel Magistero di Papa Francesco, sia in quello scritto, sia in quello orale, sia in quello dei gesti, no? Che abbiamo anche evidenziato bene, c'è un primato dell'evangelizzazione, cioè, questo sicuramente Evangelii Gaudium lo dice molto bene, no? Quindi, da un lato, quindi, si evidenzia che questa evangelizzazione deve essere il primato sia nella pastorale ordinaria, però mettendo dentro anche quelli che abitualmente non frequentano il culto. Tra l'altro io sono certo, perché ne ho lo so perché ne ho conosciute di persone che magari sono ancora lontane o sono state lontane molti anni dalla vita della Chiesa, cioè dalla frequenza, che so, della messa domenicale, eccetera, no? Che però seguono Papa Francesco, per esempio anche l'Angelus domenicale, no? E quello è un modo molto bello di riavvicinarsi poi gradualmente, fino a che poi potrà maturare per parecchi anche il rientrare poi anche nella vita dei sacramenti frequentati, no? Don Andrea, sì. Abbiamo Michele in linea. Pronto? Pronto. Don Andrea, buonasera. Buonasera. Innanzitutto grazie di queste piccole chicche che ci sta dicendo di Papa Francesco. Sì. E, mi ha colpito molto questa questo fatto del carcere, cioè di questo carcerato che ha scritto ad Avvenire, raccontando un po' delle cose all'interno, diciamo, di quello che è avvenuto poi quando il Papa ha mangiato con loro, l'aspettare affinché tutti potessero iniziare a mangiare, il fatto che ha condiviso l'acqua, l'aranciata, quello che c'era, e il fatto di dividere la sua cotoletta, perché poi aveva da fare, doveva macinare parecchio compito, parecchio apostolato. E secondo me questo è il segno distintivo di questo Papa, la semplicità, l'empatia con le persone che sono nella sofferenza, dai carcerati agli ammalati. È stato molto bello anche quello che ha raccontato quando si è fermato a salutare l'ammalato che veniva portato in barello. E volevo chiederle una cosa, quindi un grande rispetto, una grande condivisione e un grande aiuto, anche l'umiltà di quando chiede tutte le volte che la domenica lui, ma io penso anche quando va nei suoi viaggi in giro per il mondo, che chiede preghiere, insomma, perché sa di essere sì pontefice, sì successore di Pietro, però allo stesso tempo persona fragile. Volevo chiederle questo. So che lui, prima di un viaggio in giro per il mondo, si reca in una chiesa di Roma a portare un mazzo di fiori alla Madonna e a raccogliersi in preghiere. È possibile saperne qualcosa di più, cioè, di questa sua grande fiducia nella Madonna? E so che ha anche grande fiducia in San Giuseppe. A volte rende scherzando, dice, quando ho bisogno di qualcosa, io metto il biglietto la sera sotto la statua di San Giuseppe che ho nella mia stanza, e lui puntualmente mi ascolta. L'ascolto per radio. Grazie, Don Andrea. Sì. Grazie, grazie Michele, grazie davvero, perché in effetti questa, per esempio, proprio questa, è stato bene mettere in evidenza, al di là di l'episodio che ho raccontato, ma per esempio questo aspetto della preghiera, di chiedere sempre la preghiera per lui, cioè lui dice sempre, e mi raccomando, non vi dimenticate di pregare per me, no? Io sono convinto che queste cose non possono essere, lo sappiamo noi, perché vale anche per noi, quando veramente diciamo sempre qualcosa, è perché siamo veramente convinti di averne bisogno, di quella cosa che diciamo. Quindi in questo caso lui è assolutamente convinto dell'importanza della preghiera per lui, no? E tutta, ricordate quando negli Atti degli Apostoli si dice che tutta la Chiesa pregava per Pietro, che era incarcerato in quel momento e poi viene liberato dalle catene, no? E poi, ecco, l'altra volta, nell'altra trasmissione, ricordavo come quando il Pio VI fu imprigionato dai rivoluzionari francesi, quando Pio VII da Napoleone fu imprigionato, la Chiesa cominciò di nuovo con più forza, ecco, a pregare per il Papa. Allora, questa è proprio una realtà, una profonda umiltà, un sentirsi proprio al nostro stesso livello, che è quello che ha fatto anche la prima sera quando ha chiesto la benedizione, no, del popolo su di lui, ha chiesto la preghiera per lui e per Benedetto XVI. Quindi questo, se lo dice così tutte le volte senza dimenticarsi mai lui di chiederlo, e vuol dire che proprio ce l'ha molto dentro e lo vive e ne percepisce l'aiuto. Quindi noi, ecco, quello che dobbiamo fare, forse anche solo questo, la conclusione, diciamo, quello che ci portiamo a casa anche dopo questa chiacchierata di questa sera, è ritornare a proporci di non dimenticarci di pregare per il Papa. È vero che anche è molto devoto di Maria, e io più di tanto non so, però senz'altro mi ricordo benissimo come Santa Maria Maggiore, no, era una chiesa di Roma che frequentava e che da cui andò proprio il giorno dopo, fu la prima, no, la prima visita che fece il giorno dopo l'elezione, no? E andò a trovarla e a pregare, e poi anche al ritorno dai viaggi, no? Da lei, no? a portarle magari qualche regalo. Mi ricordo che quando tornò da Rio de Janeiro, dall'aeroporto di Ciampino stava tornando a Roma e io conosco un gruppo di ragazze che stava facendo in quella zona un campo estivo e che sapevano che lui faceva quel percorso e, conoscendo questa sua debolezza per la gente, fecero un po' la posta e tanto gridarono e lo salutarono che lui si fermò e gli regalarono una maglietta della GMG, insomma, che lui insieme ad un altro ricordo da io portò proprio sull'altare di Santa Maria Maggiore. Quindi, cioè, vive anche, possiamo dire, questo rapporto con Maria in modo molto umano, no? Portandole un piccolo regalino, un ricordo da un viaggio, così come l'altra grande devozione del Papa nella sua storia è stata quella riscoperta della Madonna dei che scioglie i nodi, no? Che scoprì in Germania e che poi diffuse molto in Argentina, che grazie a lui ha avuto anche molta fortuna. Ci sono molte persone che pregano quella novena della Madonna che scioglie i nodi, soprattutto i nodi delle problematiche familiari, no? Cioè questi nodi che a volte sembrano insolubili, no? Nel rapporto tra coniugi, nel rapporto tra genitori e figli, nel rapporto con i parenti, perché quella ebbe un'origine di quel. Allora, ritorno in linea. Il fatto che si sia sospesa la comunicazione quando parlavo della Madonna che scioglie i nodi vuol dire che, insomma, che è proprio importante, no? Pregare Maria anche con quella novena. E, va bene, allora io penso che, ecco, quindi questo è quello che volevo rispondere. L'importante è la devozione a Maria, la devozione a San Giuseppe, del Papa che cominciò il pontificato nel giorno di San Giuseppe. E lo mise come esempio, no, di tante cose, di custodia del creato, di custodia di Maria e di Gesù. Allora, io penso che, appunto, vi lascio con questa idea, poi continueremo anche nei prossimi mesi questa trasmissione, cioè l'idea che la priorità grande del Magistero del Papa Francesco, ma che desidera che sia per tutti noi, è quella della evangelizzazione, di portare Cristo a coloro che lo hanno un po' abbandonato, a coloro che sono passati, che so, nell'ateismo anche dopo aver ricevuto il battesimo e la fede cristiana, a coloro che sono anche lontani, però senza pensare che lontani, cioè in paesi di nuova evangelizzazione, ma non pensare che solo debba essere missionario colui che va lontano, ciascuno. ciascuno di noi, anche per la variazione delle situazioni. Cioè abbiamo molte persone senza credo o di altre religioni, il contatto con noi, alcuni di loro con santa libertà, come dice il Papa sempre, senza proselitismo, però possono essere attratti e chiederci motivo della nostra fede, no? dare la motivazione della nostra fede, dare la motivazione della nostra speranza. E per questo il Papa diceva, e con questo concludo, che nell'Evangelio di Gaudium, che l'importante era nel nostro apostolato, nella nostra evangelizzazione, dare il kerigma, cioè la prima evangelizzazione, il primo annuncio, no? Che non significa che debba essere detto solo all'inizio, ma che deve essere continuamente ricordato, elementi essenziali, no? che il Signore ci ama, che il Signore si è incarnato, che il Signore è morto per noi e che perdona i nostri peccati e che continuamente ci dona la sua grazia perché ha dato la sua vita per noi. Ecco, qualcosa di questo tipo, l'essenzialità di questo messaggio, noi lo possiamo passare con poche parole o con pochi gesti, come il Papa Francesco fa. Quindi noi possiamo imparare dalle sue parole, meditarle, leggerle, meditarle, sono sempre molto ricche, e dai suoi gesti, però senza solo pensare, commuoverci e pensare che sono tanto belli da vedere, ma pensare che noi lo possiamo imitare nel nostro piccolo ambiente. Il Signore ci sta parlando anche attraverso i suoi gesti, le sue parole e i suoi gesti. Ecco, per esempio lui diceva, a proposito di questo, no? Nei Vangeli di Gaudium 164, abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o kerigma, che deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale. È il fuoco dello Spirito che si dona sotto forma di lingue e ci fa crescere credere in Gesù Cristo, che con la sua morte e resurrezione ci rivela e ci comunica l'infinita misericordia del Padre. Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. Quando diciamo che questo annuncio è il primo, ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. Per questo anche il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato. E in questo senso voi, ecco, pregate per me, pregate anche per tutti i sacerdoti, perché anche noi abbiamo bisogno di reimparare sempre queste cose per viverle.